Certo, fra le quinte d'un teatro o durante un ballo in maschera si è piuttosto portati, per cortesia, a esagerare la difficoltà, ad affermare quasi l'impossibilità di riconoscere la persona travestita. Qui, al contrario, un istinto m'aveva avvertito di dissimulare quanto più possibile. Sentivo che non avevano niente di lusinghiero, perché la trasformazione non era voluta. E mi faceva infine capire, cosa cui non avevo pensato entrando in quel salotto, che qualsiasi festa, per semplice che sia, se si è smesso da parecchio d'andare in società e se soltanto riunisce alcune delle persone conosciutevi un tempo, fa l'effetto d'una festa mascherata, la più riuscita di tutte, quella dove si è più sinceramente ingannati dagli altri, ma dove le facce che costoro si son fatte senza volerlo da chissà quanto tempo non si lasciano disfare, una volta finita la festa, da nessuno struccaggio. Ingannati dagli altri, a nostra volta, ahimè, loro ingannatori. La stessa difficoltà che provavo a mettere il nome giusto su quei volti sembrava infatti condivisa da tutte le persone che, scorgendo il mio, non vi badavano più che se non l'avessero mai visto o si sforzavano di liberare dall'aspetto attuale un diverso ricordo. Se il signor d'Argencourt aveva fatto quello straordinario numero, che era certamente nella sua burlesca bizzarria la visione più sorprendente che avrei serbata di lui, era come un attore che rientri un'ultima volta in scena prima che il sipario scenda definitivamente nel bel mezzo delle risate. Se non provavo più risentimento nei suoi confronti, era perché in lui, che aveva ritrovato l'innocenza dell'infanzia, non c'era più nessun ricordo delle nozioni sprezzanti che aveva potuto avere di me, nessun ricordo d'aver visto il signor di Charlieu lasciare bruscamente il mio braccio, sia che non ci fosse più nulla in lui di tali sentimenti, sia che questi, per arrivare sino a noi, dovessero passare attraverso rifrattori fisici così deformanti che strada facendo cambiavano completamente senso e il signor d'Argencourt sembrasse buono per la mancanza di mezzi fisici atti ad esprimere ancora la sua malvagità e a ricacciare indietro la sua perpetua, invitante ilarità. Parlare d'attore era troppo. Privo com'era di qualsiasi anima cosciente, era come un trepidante burattino dalla barba posticcia di lana bianca che lo vedevo muoversi, portato su e giù per quel salotto come in un teatrino insieme scientifico e filosofico dove egli serviva, come in un'orazione funebre o in un corso universitario, al tempo stesso da richiamo alla vanità del tutto e da esempio di storia naturale. Burattini, ma che, per identificarli come le persone conosciute un tempo, era necessario leggere contemporaneamente su più piani, posti dietro di loro, e tali da dar loro profondità e da costringere, in presenza di quei vecchi fantocci, a un lavoro mentale, giacché bisognava guardarli, oltre che con gli occhi, con la memoria. Burattini immersi nei colori immateriali degli anni. Burattini che esteriorizzavano il tempo. Il tempo che di solito non è visibile e per diventarlo cerca dei corpi e ovunque li trovi se ne impadronisce per proiettare su di essi la sua lanterna magica. Immateriale come una volta Golo sulla maniglia della porta della mia camera di Combray, il nuovo e irriconoscibile Argencourt figurava così come la rivelazione del tempo, che rendeva parzialmente visibile negli elementi nuovi che componevano il signor d'Argencourt e il suo personaggio, si leggeva un certo numero d'anni, si riconosceva la figura simbolica della vita, non quale essa ci appare, ossia permanente, bensì reale. Atmosfera così mutevole che l'altezzoso signore vi si dipinge in caricatura la sera come un ribendugliolo d'abiti. In altri esseri, del resto, trasformazioni, alienazioni vere e proprie come questa, sembravano esulare dal campo della storia naturale. E a stupire, sentendo un nome, era che una stessa persona presentasse, non già, come il signor d'Argencourt, le caratteristiche d'una nuova, diversa specie, ma i tratti esteriori d'un altro carattere. Si trattava, è vero, come per il signor d'Argencourt, delle possibilità insospettate che il tempo aveva estratte da una certa fanciulla. Ma queste possibilità, pur essendo affatto fisiognomiche e corporee, sembravano avere qualcosa di morale. I tratti del viso, se cambiano, se si compongono diversamente, se di solito si mettono a fuoco più lentamente, prendono, con un altro aspetto, un significato diverso. C'era così una donna, che s'era conosciuta magra e ottusa, nella quale una maggiore carnosità delle gote, divenute irriconoscibili, un imprevedibile arcuarsi del naso, provocavano la stessa sorpresa, a volte la stessa bella sorpresa, d'una frase sensibile e profonda, d'un'azione coraggiosa e nobile, che non ci si sarebbe mai aspettate da lei. Attorno a quel naso, naso nuovo, si schiudevano orizzonti insperati. La bontà, la tenerezza, un tempo impossibili, diventavano possibili con quelle gote. Davanti a quel mento si poteva far sentire qualcosa che davanti al precedente non sarebbe mai venuto in mente di leggere. Tutti quei tratti nuovi del viso implicavano altri tratti del carattere. La magra e spigolosa fanciulla era diventata una vasta e indulgente matrona. Non era più, in un senso zoologico, come per il signor d'Argencourt, ma in un senso sociale e morale che si poteva dire è un'altra persona. Per tutti questi aspetti, un ricevimento come quello a cui mi trovavo era qualcosa di molto più prezioso di un'immagine del passato. Mi offriva, per così dire, tutte le immagini successive e che non avevo mai viste, che separavano il passato dal presente, meglio ancora. Il rapporto fra presente e passato era come ciò che una volta si chiamava una veduta ottica, ma una veduta ottica degli anni. La veduta non d'un momento, ma d'una persona situata nella prospettiva deformante del tempo. Quanto alla donna di cui il signor d'Argencourt era stato l'amante, non era molto cambiata, se si teneva conto del tempo passato. Vale a dire che il suo viso non era poi così distrutto per essere quello di una persona che si deforma lungo tutto il percorso nell'abisso dove sta precipitando, abisso di cui possiamo esprimere la direzione solo ricorrendo a paragoni tutti ugualmente vani, dal momento che possiamo prenderli a prestito unicamente dal mondo dello spazio e che offrono, tanto se li orientiamo nel senso dell'altezza quanto in quello della lunghezza o della profondità, il solo vantaggio di farci sentire che questa dimensione inconcepibile e sensibile esiste. La necessità, per dare un nome alle figure, di risalire effettivamente il corso degli anni, mi costringeva poi, per reazione, a ristabilire, mettendoli al loro posto reale, gli anni a cui non avevo pensato. Da questo punto di vista, e per non lasciarmi ingannare dall'identità apparente dello spazio, l'aspetto affatto nuovo d'un essere come il signor d'Argencourt era, per me, una rivelazione impressionante di quella realtà del millesimo che di solito ci rimane astratta, come la comparsa di certi alberi nani o di giganteschi baobab ci avverte del cambiamento di meridiano. La vita ci appare allora come lo spettacolo fiabesco in cui vediamo il neonato diventare di atto in atto adolescente, uomo maturo e curvarsi verso la tomba. E poiché sentiamo che è per effetto di mutamenti perpetui che questi esseri, prelevati a intervalli abbastanza grandi, sono così diversi, sentiamo anche d'aver seguito la stessa legge di queste creature, che si sono talmente trasformate da non assomigliare più, senza aver cessato d'esserlo, anzi proprio per non aver cessato d'esserlo, a quelle da noi vedute un tempo. Una giovane donna, da me conosciuta in altri tempi, adesso canuta e rattrappitasi in vecchina malefica, sembrava indicare la necessità che nel divertimento finale d'uno spettacolo gli esseri siano travestiti in modo da essere irriconoscibili. Ma suo fratello era rimasto così dritto, così uguale a se stesso, da far sembrare sorprendente che si fosse fatto tingere di bianco sul viso giovane, i baffi ben arricciati. Le parti bianche di barbe, prima completamente nere, rendevano malinconico il paesaggio umano di quel ricevimento, come le prime foglie gialle sugli alberi quando ancora si credeva di poter contare su una lunga estate, e prima ancora d'aver cominciato a goderne, si vede che è già autunno. E io, che fin dall'infanzia ero vissuto alla giornata, ma con un'impressione definitiva di me stesso e degli altri, mi accorsi allora, per la prima volta, dalle metamorfosi verificatesi in tutte quelle persone del tempo che era passato per loro, il che mi sconvolse con la rivelazione che esso era passato anche per me. Di per sé indifferente, la loro vecchiaia mi rattristava, avvertendomi dell'approssimarsi della mia. Questo mi fu d'altronde proclamato a ripetizione da alcune frasi che mi colpirono a pochi minuti di intervallo come le trombe del giudizio. A pronunciare la prima fu la duchessa di Guermont. L'avevo vista passare fra due ali di curiosi, i quali, senza rendersi conto dei meravigliosi artifici di sartoria ed estetica che agivano su di loro, emozionati di fronte a quella testa rossa, a quel corpo salmonato che emergeva appena strangolato di gioielli dalle sue squame di pizzo nero, lo guardavano nella sinuosità ereditaria delle sue linee, come avrebbero guardato un vecchio pesce sacro, carico di pietre preziose, in cui si fosse incarnato il genio tutelare della famiglia Guermont. «Ah», mi disse, «ecco il mio più vecchio amico, che gioia rivedervi!» E io, nel mio amor proprio di giovanotto di Combray, che mai in nessun momento s'era considerato fra i suoi possibili amici, veramente partecipe della vera, misteriosa vita dei Guermont, un amico allo stesso titolo del signor di Beauté, del signor di Forestel, di Swan, di tutti quelli che erano morti, avrei potuto esserne lusingato. Ne fui soprattutto infelice. Il suo più vecchio amico, pensai, sta esagerando. Uno dei più vecchi può darsi, ma insomma sono forse... In quel momento mi si avvicinò un nipote del principe. «Voi che siete un vecchio parigino», mi disse. Un attimo dopo mi portarono un biglietto. Avevo incontrato, arrivando, un giovane Letouville, di cui non ricordavo bene la parentela con la duchessa, ma che mi conosceva un poco Era appena uscito da Saint-Cyr e pensando che avrebbe potuto essere per me un compagno simpatico come era stato Saint-Leu, in grado di iniziarmi alle faccende dell'esercito con tutti i cambiamenti che c'erano stati, gli avevo detto che l'avrei raggiunto subito e che avremmo preso appuntamento per pranzare insieme, cosa di cui mi aveva molto ringraziato. Ma ero rimasto troppo a lungo a meditare in biblioteca e il bigliettino che mi aveva lasciato era per dirmi che non aveva potuto aspettarmi e per darmi il suo indirizzo. La lettera del bagheggiato compagno finiva così: molto rispettosamente, il vostro giovane amico Le Tourville. Giovane amico. È così che un tempo io scrivevo alle persone che avevano 30 anni più di me, alle Grandin, per esempio. Come? Il sottotenente che avevo immaginato mio compagno come Saint-Leu si definiva mio giovane amico. Ma allora non erano cambiati solo i metodi militari, ultimamente. E per il signor di Le Tourville io ero dunque non un compagno, ma un vecchio signore. E dal signor di Le Tourville, accanto al quale io mi immaginavo quale apparivo a me stesso un buon compagno, mi separava dunque lo scarto d'un invisibile compasso cui non avevo pensato. Situandomi a una tale lontananza dal giovane sottotenente, da far sì che agli occhi di chi si definiva mio giovane amico, io fossi un vecchio signore.